Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascal, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sta storia del televisore, vero o no? È curioso. Ma che non ci rompono i coglioni, guarda. Ma chi perché dice? Perché sono tutte una massa di pezzi di merda, guarda. E sto rive, senti sto rive, queste sono greche, sai? Grechi! E no, ma dai, sono grechi! Sono buoni. Come so, di la verità! Sono greche. La prossima settimana parto in Ecuador, Bolivia e Paraguay. Esprimo la mia gioia di trovarmi a casa loro. Lisa, mi senti? Mi senti? Sì, sì. Ma dove sei, scusa? Beh, io sono al telefono di casa. Ah, ecco, no, non ti sentivo bene. Ma lo sai che il Papa, io ormai non mi sembri in una niente. Caverna. Sì, vabbè, ma lasciamo perdere, siamo qui all'Expo. A proposito, ho visto arrivando che c'è il padiglione del Brasile, che pare che sia uno dei più frequentati. Quello del all'Expo. Giappone. Sì, no, il Brasile anche. Che secondo me andrebbe chiuso, cioè andrebbe chiuso. Ma come oggi. È meraviglioso, si fa, si arrampica. Fermo, sì, non me ne frega niente. Andrebbe chiuso immediatamente. Non capisco perché il fatto è che noi siamo un paese senza palle. Cioè, noi abbiamo un signore che è in Brasile, che si è pure sposato con una brasiliana, colpevole di 4 omicidi, un signor terrorista che si chiama Battisti, e chiediamo l'estradizione da un sacco di tempo e questi stronzi di brasiliani non ce la concedono. Noi invece apriamo l'Expo e permettiamo al Brasile di fare un padiglione meraviglioso. Beh, ma un che paese c'entra, No, c'entra benissimo, c'entra perché ci sono problemi commerciali, anche accordi commerciali. Io avrei impedito al Brasile di fare un padiglione all'Expo. Impedito, chiuso. E ci possiamo anche ripensare, Ma ma oltre le relazioni diplomatiche, ma che c'entra? No, di fronte a queste storie qui, guarda, io non mi fermerei di fronte a nulla. Un paese con le palle avrebbe impedito a quegli stronzi di brasiliani di aprire un padiglione qui all'Expo. Allora, no, ti dicevo del Papa, no? Ormai è pronto a fare qualsiasi cosa. Probabilmente quando dirà che il papato è morto, perché prima o poi dirà anche che il papato è morto, no? Sì, nessuno... è verosimile sì che questo succeda. Tra un po' dirai il papato è morto, è finito il papato, che sarebbe anche una grande cosa la fine del papato, no? Cioè, perché beh, un po' mi dispiacerebbe però perché no, a me no, a me no, no, no, beh, no, no, poi no, con io sono... chi è? Ma scusa, con chi fai battaglia, scusa? No, ma no, il Giovanardi, che fate? Sparisce il papato. Prima o poi il papato morirà. C'è una roba anche con tutta quella gente vestita in modo strano, con le cose. E prima o poi il papato, come i preti resisteranno, ma il papato morirà. Tutta quella roba di ricchezza, di sparso, morirà tutto, no? È evidente. E il papa stesso lo farà morire. Cioè, Papa Francesco, secondo me, dirà il papato è morto, così come lo conosciamo. E allora nessuno si meraviglierà, perché in realtà l'avrà ucciso lui il papato, capito? Cioè, sarà stato lui a uccidere. Vabbè, ma che abbiamo oggi? Dobbiamo parlare della Grecia, no? Perché ne ha parlato Barisoni, chi se ne frega? Ma come chi se ne frega? Lì sta, sta lì no, tutto, no, no, scusa. No, no. Adesso arriva Salvini, parliamo con Salvini di Grecia un po', ma è un tema che mi rompe le scatole in maniera pazzesca. Sì, la sospensione di De Luca, va. No, la sospensione di De Luca pure è una rottura di scatole. Grillo. Vi faccio sentire Grillo, che questo ti piacerà, David, che durante il weekend è andata a Ostia. Sì, ho visto. Beh, stupendo. A un certo punto ha detto: io farei come in Norvegia, dove non ci sono né i banchi né i libri di testo. Però guarda che su questa cosa qua non ha tutti i torti. No, li ha tutti. Non tutti. No, senti questa cosa della Norvegia. Cioè, in Norvegia non esiste la scuola tra gli sbanchi, dice lui, ma in realtà non sarà vero. Cioè, non ci sono i banchi e i libri di testo. Non c'è niente in Norvegia, normale. Senti. Guardate le aule, abbiamo ancora l'aula! L'aula! Ma fai a vedere le scuole in Norvegia, in Olanda, in Danimarca, in Germania, non ci sono più le aule! Sono spazi aperti, dove non c'è più neanche il libro. C'è una libreria che se vuoi vai a consultare. Ormai c'hai iPad, ci sono gli studi fatti in società, cioè fatti tutti insieme. Adesso non è vero, ragazzi, c'è un sacco di gente che ci ascolta dall'estero, in Norvegia, non so dove ha detto pure lui, non è che non esistono i banchi. Morta. Ma no, ma non è vero, esisteranno i banchi e poi esisterà sicuramente la scuola computerizzata. Ma è un concetto vecchio, che hai tu nella testa malata, tu la Confindustria, non deve esistere, e deve fare la scuola dentro un ruscello. No, ma che c'entra? Lui ha detto un'altra cosa. Nei fiordi, si fa la scuola nei fiordi con i delfini, è normale. Vai lì, senti, non ci sono gli insegnanti, non ci sono i sindacati, ci sono i fiordi, ti butti nei fiordi, è così, è la scuola moderna. Aspetta un attimo, ti faccio sentire questo vaffanculo sugli sbarchi programmati. Questa è una cosa un po' salviniana, eh? Cioè gli sbarchi sono tutta una roba organizzata dalla mafia, però mi piace questo grillo così di battaglia, senti. E allora questi flussi, queste cose non sono disgrazie, sono cose programmate. Io vi pregherei di capire che sono cose programmate. Dietro gli scafisti, dietro la morte, c'è sempre qualcuno che guadagna. Uno fa le armi, uno fa la guerra e noi ci dividiamo i morti. Vaffanculo, ve lo dico io. Oh, è un primo vaffanculo di Grillo dopo non so quanto tempo. Sarà passato 6 mesi, forse un anno. Ma su questa cosa ha ragione lui. C'è niente da fare, ha ragione lui, è così. Non so se è d'accordo pure Salvini per il lunedì salviniani in diretta questa volta da Bruxelles. Buonasera. Dov'è? Ragazzi, fatemi sentire. Salvini? Tin, tin, tin, tin, tin. Sentiamo Grillo lo spazzolino, dai. Lo spazzolino che facevo io nel 2000, credo era nel 2002, 2003, non mi ricordo più, lo spazzolino che prendevi, lo spazzolino che è fatto di plastica, che lo butti, si incenerisce, diventa diossina, va in mare, piove, vi ricordate? La diossina va nel plancton, tu vai al ristorante, prendi un branzino e ti sei mangiato il tuo spazzolino. Era il giro dell'economia, ma lo dicevo 15 anni fa. Salvini? Eccomi! Dove sei? Bruxelles, ma in Grecia cosa voteresti al referendum? Ma io voterei per la sovranità e la libera scelta, quindi voterei no, pur con tutti gli errori commessi dai governi greci che hanno truccato i conti, che mandavano la gente in pensione a 30 anni. Però non esiste un'Europa di strozzini, di usurai, di ricattatori che dice o mangi sta minestra o salti sta finestra. Quindi per quanto mi riguarda potrebbe essere l'inizio di una nuova Europa. Cioè Salvini direbbe alla una ipotetica Lega greca di votare no al referendum, quello che ci sarà. Ma è d'accordo con quel pazzo di Varoufakis, Salvini. Ma che pazzo di Varoufakis? È eletto dal popolo Varoufakis. Ma che c'entra? Ma non è che anche Hitler è eletto dal popolo, che c'entra all'inizio? Stai paragonando Varoufakis a Hitler? No, ma ti dico che non è che l'elezione popolare di per sé ti dia la patente di intelligenza, anzi più delle volte te la dà di deficienza per quello, perché è chiaro, no? Non è che... Vabbè, Salvini, dice Parenzo che tu sei d'accordo con la sinistra greca in pratica. Ma certo! No, perché peraltro la sinistra greca è ipocrita, non va fino in fondo, non parla di uscire dall'euro, eh. C'è una parte di sinistra greca che dice io non voglio pagare il debito, però voglio rimanere in Europa e voglio tenermi l'euro. Quindi, fratello mio, non puoi avere la botte piena della moglie ubriaca. Quindi su questo Tsipras è un chiacchierone a metà, nel senso che non va fino in fondo, non puoi non pagare la Grecia, i debiti. Secondo te dovrebbe uscire dall'euro subito la Grecia? Ah no, è l'euro che uscirà dall'Europa, è l'euro, non vabbè, è più la battaglia però contro l'euro, è l'euro che è finito, si è dimostrato una moneta sbagliata. Cioè tu usciresti oggi se fossi premier in Italia, siccome i sondaggi ti danno... Sì, ma non è, il problema non è cosa farebbe Salvini, uno dei paesi più euro entusiasti da sempre. Beh, sì, quello è un problema. Cosa farebbe Salvini è sempre un problema. Però David, scusami, mi fai parlare un attimo, finiamo un discorso. Allora, con Parenzo un discorso a persone normali è difficile. No, ma perché non capisce le difficoltà di collegamento, perché siamo su tre linee diverse, tu a Bruxelles, io a Milano e l'altro a Roma. Allora, io voglio capire una cosa. Tu, se fossi presidente del Consiglio, allora, siccome ti danno i sondaggi, con gli idioti dell'Europa, sì, e fuori da una moneta evidentemente sbagliata, che è un esperimento genetico mai fatto nella storia, mezza Europa, Italia compresa, tornerebbe a lavorare e a sperare. Dunque, io, tu fossi premier in Italia, uscirei domani mattina. Domani mattina. Dunque, se tu ipoteticamente fossi presidente del Consiglio, avvieresti le pratiche, chiamiamole così, per l'uscita dall'euro. Benissimo. Un bel tavolo, convocando tutti i 19 paesi che sono dell'euro, perché io ricordo a chi ci ascolta che su 29 paesi dell'Unione, 10 l'euro non l'hanno mai voluto, né mai lo vorranno. Quindi siamo in 19 che corrono con questi scarponi da sci ai piedi 100 metri. Ragazzi, pensiamo a come uscire dal problema dove ci hanno infilato, perché evidentemente, ripeto, se la Finlandia è uno dei paesi più euroentusiasti, si sta ponendo il problema di come uscire da questo disastro. La Finlandia non è la Grecia, non ha la mafia, non ha la corruzione, non ha gli sprechi. Evidentemente, se in Finlandia c'è una disoccupazione che sta arrivando al 10%, evidentemente ci sono delle regole sbagliate, quindi si possono ridiscutere queste regole. Allora, abbiamo il traffico. Mi segnalano, ma l'avevo letto anche oggi, che un albanese nudo è stato arrestato davanti alla sede della Lega Nord in via Bellerio, forse ieri notte. Un albanese nudo. Non so se Salvini ha notizia di questa cosa qua. Cercava te l'albanese nudo, no? Stamattina non l'ho visto, però purtroppo a Milano, e non solo a Milano, di gente nuda che piscia, che caga, che ne combina di tutti i colori, purtroppo è all'ordine del giorno. Ma non esageriamo, adesso io ho girato per Milano oggi, non ho visto nessuno nudo che pisciava e che cagava. Comunque, vabbè, traffico e torniamo, fermi tutti. Tu che fai quando vai a dormire? Ti sogni traffico. La Zanzara. Siamo in diretta con Matteo Salvini da Bruxelles, è lunedì, appuntamento tradizionale qui a Radio 24, anzi in particolare alla Zanzara. Voglio chiedere subito a Salvini una cosa, ma se fossi là in Grecia, ti affretteresti anche tu a ritirare i soldi dal bancomat? A parte che le banche oggi sono chiuse, cioè ritireresti proprio di gran carriera i tuoi denari in banca? Pronto? Scusa. Sì, dimmi Parenzo. No, fammi dire intanto che comunque la notizia più bella è quella che hai dato tu prima, quella da indagare oggi, è questa, dell'uomo nudo albanese. In che senso, scusami, spiegami. È la notizia più bella della giornata. L'uomo nudo che corre davanti alla sede della Lega via Bellerio, nudo. Urlando non si sa che cosa, ma questo è interessante. Cioè, questo è interessante bello. Cosa? È un pazzo scatenato per strada? No, è un uomo che si è messo nudo davanti alla nudità della Lega, davanti a denudare, è come se avesse metaforicamente denudato la Lega di tutti, del podio, si è proprio spogliato, ha messo il suo corpo davanti a quella, eccomi, bellissimo, molto anche, come dire, surrealista, no? Molto situazionista, non andava arrestato, andava candidato semmai. Fossi stato io, lo candiderei subito io, quello con l'albanese lì, nudo, bellissimo, bellissimo. Allora, poi dice che uno si incazza, no? Ho letto oggi che un consigliere regionale umbro, un tale Biancarelli, mentre recuperiamo Salvini, un tale Biancarelli, dice, io mi vergogno un po', perché sono stato proclamato all'inizio di giugno e il 30 giugno ho già ricevuto il primo stipendio da consigliere regionale, il primo stipendio di 5.398 euro, ma non ho fatto una mazza, cioè in questo periodo non abbiamo fatto nulla, ma lo stesso discorso può valere per esempio per quelli della Campania che non faranno nulla, non so per quanto tempo prima che si risolva la questione De Luca, cioè questo dice, io mi vergogno perché però lì non prendono il gettone, Ma prima o poi lo prenderanno perché no, sono stati proclamati. No, in Campania non lo prendono perché non c'è ancora la giunta. Ma no, lo prendono perché la proclamazione è una cosa, all'inizio del Consiglio regionale è un'altra. La proclamazione non lo so, è una cosa. Sai. Questo sì, te lo dico io. Questo qua prende 5.398 euro e fino adesso non ha mosso paglia, non ha mosso nulla. E dice io sono anche un po' imbarazzato e mi vergogno un po'. Allora, Salvini, non ho capito se ritireresti i soldi da una banca greca se fossi lì. Ma io per dare un segnale lo farei anche da una banca italiana. Poi c'è terrorismo, perché i soldi, la liquidità in Grecia è garantita, però non possiamo essere servi della Banca Centrale Europea, di questa multinazionale, cioè, di per dare un po' di paura, tu dici, per mettere un ma po' di paura ritiriamo i soldi, perché la coda ai bancomat in Grecia è figlia, sì, del fallimento dell'Europa e dell'euro. Vabbè, questo è chiaro. Non è questo figlia è di altro, eh. No, questa che tu dici, dunque, per quindi mettere un po' di paura, facciamolo pure in una banca italiana, facciamolo pure nelle banche italiane. Ragazzi, qua, o ci mettiamo al tavolo e cambiamo le regole europee, perché quello che oggi succede in Grecia, domani, sì, succede in Spagna, dopodomani in Portogallo, sì, e poi tocca a noi. Quindi o ci arriviamo per tempo, oppure ogni mese vivremo un dramma come questo. Quindi tanto vorrebbe che 29 paesi europei si mettessero intorno, sì, al tavolo e dicessero: ragazzi, rivediamo tutti i trattati, perché così com'è evidentemente non va. Perfino la Germania si sta fermando. Senti, perfino ti voglio la chiedere, Germania ti si sta fermando. Senti Matteo, ti voglio chiedere una cosa. Nei giorni scorsi io ho appoggiato una decisione controversa del premier australiano, il quale ha deciso di pagare gli scafisti per riportare indietro alcuni immigrati, alcuni barconi in Australia. Cioè, cosa ha fatto questo qua? Non li ha combattuti, non li ha arrestati, ma la marina militare, non so che cos'era, la polizia australiana ha pagato i padroni degli scafisti, cioè i banditi, gli scafisti, per riportare indietro le barche. Si potrebbe fare pure da noi o no? Su questo secondo me ha sbagliato. L'Australia per me è un modello, ma io non affonderei mai le barche gli scafisti senza pagarli né per portarli qua né per portarli da nessun'altra parte. Cioè, il modello di civiltà australiano, il no way, se tu sbarchi senza documenti ti riporto indietro immediatamente da dove sei arrivato, è un modello assolutamente da copiare. Però pagare gli scafisti, che avrebbero il doppio incasso, prima per fare il viaggio e poi per andare da un'altra parte, mi sembra troppo. Senti, io Parenzo, mi hanno massacrato. No, io sono basito dell'appello che ha fatto Salvini da ritirare i soldi dalle banche. Questo secondo me è scandaloso. No, facendo, da un io sto dicendo, ragazzi, dobbiamo dare un segnale. Ma nel fatto che questa Europa, così com'è, ci porta al massacro. Ma siamo, non deve passare questo messaggio della banca, della BCE, della Troica. Ragazzi, o aspettiamo anche noi di fare la fine della Grecia? No, non ho voglia, non mi piace. Allora, un'altra cosa, siccome, ripeto, i sondaggi danno Salvini allo stesso livello di Renzi di gradimento, almeno l'ultimo sondaggio che ho letto, cioè il 36%, e sempre sulla scorta della domanda precedente, se fosse premier, puntini puntini, attaccheresti l'ISIS subito? Sì. Sì, andrei in Libia subito. Ritirerei le sanzioni contro la Siria, perché magari molti ascoltatori non lo sanno, però noi stiamo sanzionando da 3 anni la Siria, abbiamo un embargo su tutti i prodotti, comprese le medicine, e allora? Per cui stiamo facendo morire migliaia di siriani che sono i nostri primi alleati contro l'ISIS. Allora, attaccare l'ISIS, cioè fare un'operazione militare contro l'ISIS, la Siria l'ISIS non ha l'ambasciata in Italia. No, ma dico, fare un'operazione, l'ambasciata siriana in Italia. Questi stanno combattendo l'ISIS e noi gli mettiamo due dita negli occhi, perché vuoi sapere perché? Perché in Siria ci sono 14 giacimenti petroliferi ancora da sfruttare, che fanno gola a qualcuno. E se vogliamo finirla, sapete chi compra il petrolio dell'ISIS? La Turchia, chi? Uno dei principali alleati della NATO e degli Stati Uniti. Io non sono un complottista, sentivo Grillo però mi viene i capelli dritti in testa. Però ragazzi, chi sta finanziando l'ISIS? Chi sta finanziando i tagliagole? Compra il petrolio. Ragazzi, ho capito perfettamente. Dobbiamo chiudere. Ci sentiamo. Ciao Matteo, ci sentiamo dopo il GR delle 19. Ciao. Questa è, come vi ho detto in una precedente trasmissione, una informazione da Oclocracy. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Soul, punto di riferimento per valorizzare il tuo investimento fotovoltaico. Vieni su ottimizziamo.it. La Zanzara. Ragazzi, risentiamo Grillo sulla questione dei banchi in Norvegia, là che in Norvegia non ci sono i banchi, i libri di testo, che siamo in un altro mondo, anche noi dovremmo avere una scuola che nel futuro non ha i banchi, non ha i libri di testo. Guardate le aule, abbiamo ancora l'aula! L'aula! Ma vai a vedere le scuole in Norvegia, in Olanda, in Danimarca, in Germania, non ci sono più le aule! Sono spazi aperti, dove non c'è più neanche il libro. C'è una libreria che se vuoi vai a consultare. Ormai c'hai iPad, ci sono gli studi fatti in società, cioè fatti tutti insieme. Sai, Davide, che mi sono convinto alla fine che l'unica soluzione per Roma è un sindaco dei 5 Stelle? Cioè, l'unica soluzione per salvare Roma dal disastro in cui è piombata è un sindaco a 5 Stelle. Cioè, Di Battista, che io non sopporto per tante cose, però in realtà potrebbe essere un ottimo. Che non vuole neanche Grillo, peraltro, forse. Ma no, perché c'hanno questa stronzata, devono un po' scendere un po' a patti col diavolo, no, perché hanno rotto i coglioni. Devono cambiare le loro regole, a me sicuro che non me ne frega nulla, perché io non mi interessa. Devono cambiare lo statuto, le loro regole, no? La rete, devono cambiare, no. La rete. Ma sì, dai. No, non è tanto la rete, è un'altra questione, tu non hai capito nulla come al solito. Di Battista tutto, è stato... Ma non me ne frega veramente nulla, perché sono loro stessi che si smentiscono, dicono no, allora facciamo la deroga a Di Battista, perché esatto. Che noia! Che noia mortale con queste stupidaggini di regole che si sono date. Allora, che poi sì, no, ma hai ragione, su questo hai ragione, nel senso che dovrebbero smettere con queste regole ridicole. Dire, quello è un bravo politico, piglia i voti. Può fare il sindaco. Però è anche vero che è stato eletto e loro dicono, tu se sei stato eletto devi finire il mandato. Il quale dice che le forze dell'ordine stanno con i grillini ed evitano i politici, senti. Esponenti delle forze dell'ordine che stanno dalla parte nostra, anche perché quando frequentano gli altri, perché gli devono fare la scorta, li conoscono, quindi cercano il più possibile di evitarli, e mi dicevano, ma io ho questa piazza così bella, così pulita, e gli ho detto, è normale, quando scende in piazza il popolo del Movimento 5 Stelle, voi dovete sapere bene che i ladri sono assoluti. Sentiamo un po' di persone, vai, 800 24 00 24, andiamo a Torino, Luigi, vai. Ciao, chiamo da Torino. Dimmi. Ho sentito Salvini, quel coglione di Salvini, anch'io sì. Ho 62 anni e vorrei andare in pensione. Se un greco è andato in pensione a 50 anni, lo devo pagare io? Cioè, è troppo non facile. Non hai capito ancora. Allora, i greci hanno commesso nel passato tanti errori, adesso non torniamo sulle vicende. E li dobbiamo pagare noi, secondo te? Oppure quel coglione di Salvini? Che lui basta che fa propaganda, perché tanto noi italiani siamo così coglioni da dargli credito. Cioè, tu pensi che noi mandiamo dell'esercito a combattere in Iraq oppure dove cazzo sono? Ma perché te la pigli con me? Io ho chiesto a Salvini, siccome i sondaggi lo danno a livello di Renzi, se tu fossi il premier... Ma l'italiano è corrotto, noi italiani siamo corrotti. Allora anche tu sei corrotto. Anch'io. Perché che fai per essere corrotto? Merda. Che fai? Io devo corrompere, non è che sono corrotto, io devo corrompere per lavorare. Ma noi siamo questo, lo capisci che siamo questo? Cioè, quando Berlusconi ti dice io ti do la dentiera oppure ti do l'apparecchio, no, noi crediamo vecchia, in questo. Tu pensi che Salvini, che governa, che non è capace di governare neanche il condominio dove lui abita, che non ha mai governato nulla? Questo non lo puoi sapere, non ha mai governato nulla, no, quello è vero. Non lo posso, ma secondo te l'italiano va a fare la guerra all'ISIS, va in Libia, va in Iraq oppure vai... Dove cazzo vuole mandare lui? Quello no, perché. Ma smettetela a chi? Ma dillo a Salvini, non lo dire a me, io non c'entro una mazza. Dai, Valerio, provincia di Latina, dai. Eccomi qua. Valerio. Sono Valerio in provincia di Latina. Ti ringrazio di avermi dato la parola. Dai, forza, vai. Gli argomenti che state toccando sono tanti. Volevo riferirmi alla corruzione. La corruzione è sinonimo di mediocrità. Più mediocrità c'è e più corruzione c'è. Se riuscissimo a abbassare la mediocrità, sì. Come ha detto il signore, la mediocrità, la corruzione è la filosofia. Vai, andiamo sul sodo. Perché hai chiamato, Valerio? Al di là della questione filosofica sulla mediocrità, la corruzione, eccetera, che mi vuoi dire? Vai. Volevo dire che gli spazi aperti, dare spazio ai ragazzi, non usare il registro. Io lo facevo come insegnante 35 anni fa e mi hanno cacciato dalla scuola perché stavo fuori dal sistema. quindi queste cose c'è gente che già ha cominciato a fare, solo che non avendo la popolarità di Grillo. E sì, poi non è vero che siamo tutti senza palle, ci sono persone che hanno le palle e ce le vogliono tagliare a tutti i costi. Mi riferivo solo a questo. Non ho capito nulla. Margherita da Vercelli, vai. Margherita. Buongiorno, buonasera. Io volevo fare un intervento in merito a Salvini, ma neanche in merito a quello che dice, che non mi interessa, lo reputo un populista da quattro soldi, pessimo, ma non importa. Una cosa, lui è parlamentare europeo, prende 15.000 euro al mese. Ma perché continua a boffare la Waller a tutti dall'Italia? Ma perché non può andare in Europa a fare le sue battaglie, dove peraltro prende un lauto stipendio? A me non interessa che continui a rompere con le sue storie. Dove si decidono i temi dell'immigrazione per i rifugiati? In Europa. Dove si decide la politica monetaria? In Europa. Ma vada in Europa a fare il suo lavoro. 15.000 euro al mese prende. E allora? E allora perché sta in Italia? Ma non va mai in Europa a fare il suo? Ma che di qui, oggi, qui dall'Italia? Oggi per caso... non si può... Margherita, oggi per caso era a Bruxelles. Comunque questa qua è una critica anche giusta. Tu dici dovrebbe essere più al Parlamento europeo che in Italia. Adesso andremo a controllare ogni tanto le presenze per vedere cosa fa. Ma sai, io sono convinto che stare al Parlamento europeo è una specie di parcheggio per tutti. C'è chi lavora di più, c'è chi lavora di meno. E poi è facile presentare le interrogazioni, è facile presentare quelli che si possono chiamare disegni di legge. Insomma, alla fine il parlamentare europeo non conta una mazza. Per cui che stia in Europa, che stia in Italia, il segretario della Lega fa politica. Mi sembra una critica un po' debole, ecco, insomma, o no? Della Lega che è stato eletto come parlamentare, che non va mai un giorno là nel teatro dove si prendono le decisioni, e qua in Italia continua Amica a dire mia, una andiamo cagata. Andiamo a questa, è la tua valutazione della cagata e ci sta. Andiamo a vedere le presenze. Tempo fa ci fu qualcuno che ha protestato per l'assenza di Salvini in aula, lui poi ha detto che è presente più o meno al 60%. Che vuoi fare? È così, il Parlamento europeo è così, uno puoi andare, non, puoi non andare, non se ne accorge nessuno. Sicuramente non se ne accorge nessuno, perché una persona come lui solo in Italia può avere spazio, perché altrove lo massacrano in 3 minuti. Va bene, Antonio Forlì, vai. Ciao a tutti, Antonio. Ciao, dimmi. Io mi volevo riferire a quanto avete detto circa, diciamo in maniera molto ironica, su Beppe Grillo. Beppe Grillo ha citato una situazione che avviene nel nord Europa, dove la scuola non è strutturata come la nostra. Dopo l'indirizzo primario corrispondente... Ma io non l'ho preso affatto per il culo. Io guarda che non l'ho preso affatto per il culo. No, ma non mi riferisco a te, Cruciani. Mi riferisco al tuo socio, quello che sa tutto. Ma non sa niente. No, tu stai... Ma nulla. Ma si studia nei torrenti. Tu sei, guarda, io ti ammiro tantissimo, perché guarda, sei veramente... Ma guarda che tutto. In Norvegia si studia nei io torrenti. Io invece sono dovuto andare lì per capire come fanno. Quindi dopo gli elementari, che ci forniscono degli strumenti per conoscere, ti mettono all'interno di strutture scolastiche che effettivamente non hanno le aule dove gli spazi sono aperti, c'è il libero accesso, c'è una distribuzione del sapere tramite la tecnologia. Se uno arriva che quando gli parla, da noi normale. Non ci sono. Beppe Grillo è stato preso per il sedere da te adesso in questa maniera, come è stato preso per il sedere quando parlava di stampanti 3D. Ti notifico, caro Parenzo, tu che sai tutto, che con la stampante 3D una settimana fa hanno fatto un po'. In Giappone stanno facendo dei motori con le stampanti 3D. Ma guarda, che con me, a parte le stampanti 3D, io l'ho preso per il culo, poi magari mi richiederò, non lo so, perché io non sono certamente uno di quelli che dice che ha sempre ragione, anche quando poi le cose si verificano contrarie a quello che ho detto. Sulla questione di questa roba dei banchi, lui esalta la Norvegia perché non ci sono i banchi, non ci sono i libri di testo, per me ha perfettamente ragione. È un altro mondo, non è che c'è la scuola pubblica italiana che andrebbe rivoltata come un calzino, cioè, per cui da questo punto di vista certo la Norvegia è un modello per tanti motivi. Diciamo che in Norvegia abitano anche un po' di abitanti in meno rispetto all'Italia, o no, Massimiliano? Sì, come assolutamente, si chiama? Sono pochi milioni di persone concentrate tutte in una parte bassa del territorio, nella parte meridionale. Ma quel che mi dispiace è che la scuola italiana... E poi aspetta, ti voglio aggiungere una cosa. Tra l'altro io non è che prendevo in giro la stampante 3D perché era impossibile fare delle cose, ma il fatto che Grillo pensasse che era, come dire, una cosa che si potevano costruire subito delle case in 3D. Cioè questa era la sostanza del Beppe discorso. Grillo è un entusiasta e diceva che in America la gente si va a stampare la dentiera, cioè andava andava in 3D a farsi la dentiera, succedeva in 2-3 paesi, non ma è che succedeva dappertutto. Quel che dice Grillo, perdi di credibilità a un certo punto. Ma non è vero, perché ma dai, pure tu sei esagerato. Alcune cose giustissime che dice, alle volte ci mette delle follie, per cui quella roba della mozzarella di bufala che doveva mangiarsi soltanto in Campania, per cui rende tutto talmente comico e grottesco che anche le cose credibili perdono di valore. Fammi sentire Giacomo, dai, Giacomo, provincia di Palermo, vai, Giacomo. Buonasera. Dimmi. Buonasera, senta, io sono un vostro affezionatissimo radioascoltatore. Sì, allora? E l'altra volta avevo sentito, ascoltavo la vostra trasmissione e si parlava degli omosessuali. Il suo collega parlava, c'è stato un discorso sulla malattia. Perché per te sono malati? Per te sono malati? Per te sono malati, Froci? No, non è che sono malati, ora le spiego. No, ma non mi spiegare a lungo, sono malati o no sti omosessuali? Certo che sono, cioè qualche cosa ce l'hanno che non funziona un pochettino nella mente. Per il semplice ma fatto perché che qualcosa che non funziona? Ma se a uno piace metterlo nel culo a un altro, qual è il problema? Cioè qual è il punto? Non ho capito. Quello che non va. Non va questo, non aspetta, fermo. C'è la pubblicità, stai zitto, qui non si sente una mazza. Pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Attento al DDT, sai? Amici, tassisti, uomini di fatica, sta iniziando la grande rivincita, Parenzo. In Francia hanno ingabbiato due di Uber Pop. Ma sei contento? Amico mio, tassisti, amici miei, sta iniziando la grande rivincita. In Francia, per attività illegale, hanno ingabbiato due di Uber Pop. Ma sembri quasi godere di questa roba. Beh, amico mio, Si comincia ad assaporare il gusto della rivincita. Ma perché sei un tassista, non ho capito. Gli amici miei, tutti i tassisti sono amici miei. E qui bisogna quando c'è un'attività illegale, giustamente in Francia hanno detto: scusa, ma sta Uber Pop che fanno i cazzi loro è legale o illegale? È illegale. A un certo punto quelli che hanno proposto, la legge, che c'entra? I manager che hanno proposto questa cosa li hanno fermati, la polizia, per attività illegale, amico mio. Chiamatemi, tassisti, ditemi quanto godete per questa cosa, quanto godete perché hanno ingabbiato due di Uber Pop. Ingabbiato, poi bisogna vedere se li ingabbiano sul serio. Hai perso il tuo proverbiale garantismo, diciamo. Noi non vogliamo la galera, diciamo, no? Noi non vogliamo. Lo sai che questa cosa del Brasile mi fa veramente incazzare? Cioè, non mi sento così eccitato. No, vado a fare una piazzata a questo cazzo di padiglione del Brasile di merda che sta qua. Questi stronzi di brasiliani. Ma non si può, è un posto meraviglioso. No, amico mio, no. Io farò qualche piazzata in questi giorni. A parte che no, penso che mi rivedranno venerdì qua in questo luogo. Ma voglio dirvi una cosa: che il padiglione del Brasile. Ma è molto bello questo Expo, no? Il padiglione del Brasile va chiuso subito. Ma che sei matto? Per ritorsione sulla vicenda Battisti. Battisti si sposa, noi chiudiamo il padiglione del Brasile all'Expo. C'è quella rete meravigliosa che è la metafora del Brasile. Ma andassero a fare il culo Battisti. Questi stronzi, sono degli stronzi il governo brasiliano, non quelli che hanno fatto il padiglione. Il padiglione del Brasile, Brasile va chiuso per ritorsione. Invita un cuoco che cucina le locustre, che è più divertente. Ma che cuoco, ma vai. Il cuoco che cucina le locustre, che dai la ricetta delle locustre, bellissimo. Eravamo con Giacomo dalla provincia di Palermo, il quale sta sostenendo che l'omosessualità è una malattia, cioè che inchiappettarsi è una cosa che non bisogna fare. Mi scusi la signora che è qui davanti a me, che ha un bambino piccolo, però che dobbiamo fare, signora? Così è. No, aspetta. Dimmi. Scusami. Non è inchiappettarsi. Ho utilizzato la parola inchiappettarsi, però inchiappettarsi. Come, scusa? È la personalità che è patologica. Perché ma perché la personalità è patologica? Ma se questi quasi. Spiega. Ma tu che sei un medico, un professore? Io purtroppo sono un medico. Allora cerchiamo di come. forse la penso diversamente, ma io come persona, poi quello che vogliono fare è sempre cosa buona e giusta. Beh, mettiamola su questo. Vabbè, tu sei medico, dimmi che gli omosessuali. Allora, il fatto è la personalità. Dovete sapere, se forse persone più esperte di me sì. mi potranno o confermare o smentire. E il fatto è questo: c'è un in psichiatria si parla di DMS terzo, quarto, dipende dal tipo di. Nell'86 il DMS terzo li metteva come malattie della sfera sessuale. Sì. Nel DMS 4 ma appare finito. Ma non andare troppo nel tecnico, sennò la gente non capisce, dai. Però non si devono dire delle fesserie, perché il tuo amico dall'altra parte è naturalmente un pochettino aggressivo. E io ti dico, aspetta un minuto che ora vediamo se possiamo. No, però non andare troppo nel tecnico. Secondo te sei un medico? No, tu perché scusa, ma picchi non a maghiere nuovo tecnico, questi. Ma perché non a maghiere nuovo tecnico, perdo mio? Cerchiamo di andare sul coso. Cioè, tu dici che è una malattia psichiatrica. Che cos'è? È una malattia della personalità. Cioè, uno che dice io sono donna ed è un maschietto. Sì. Naturalmente qualche cosa non va nel suo cervello. È una malattia psichiatrica, qualcosa che non va nel suo cervello. Ma scusa, non potrebbe essere semplicemente che gli piace, no, che gli piace l'uccello, amico mio, gli piace l'uccello. Traduco da siciliano, a me piace fottere con le femmine, significa fottere con le femmine, però semplicemente c'è magari un signore, un uomo, no, che dice io mi sento femmina, mi piace, non mi piace quella che piace a te, gli piace l'uccello, come dire, no, come vuoi che te lo dica, o no? E questa secondo te è una malattia? Il matrimonio fra gay, io lo accetto, cioè lo condivido. Che cos'è che non accetti allora, scusa? La personalità, perché si devono nascondere? Perché si devono fare tutte queste cose? Loro sono liberi di fare tutto quello che vogliono. Cioè, ognuno è libero Che problema hai? Non ho capito. No, era per discutere su questo. No, io i problemi non ho, poi esercizio a casa. Vabbè, comunque la cosa grave, Parenzo, che questo Giacomo dalla provincia di Palermo è un medico, ma che tipo di medico sei? No, scusa, questo Giacomo? È gravissimo, ma poi ma voglio dire, tutti proprio i pregiudizi più stupidi, più banali. Prendete il mondo da un ma medico di che cosa poi? Appunto, voglio dire, che medico sei? Parenzo, non dobbiamo andare sui luoghi comuni, perché un conto è andare su, io sono un medico di emergenza, proprio emergenza. Sei un medico di base, No, medico di emergenza, sono specialista. Ma che vuol dire medico di emergenza? In che cosa sei specialista? 118, medicina di emergenza è usted. Vabbè, sei un medico del 118 e hai appena detto da medico che l'omosessualità è una malattia psichiatrica. Era prima considerata una malattia psichiatrica, ora nel DMS4 non viene più considerata come malattia. Ma tu pensi che sia una malattia psichiatrica? Io dal mio modesto modo di vedere è sempre relativo, deve dire apparenza, sempre relativo, e non deve criticare, non deve aggredire. Ho capito, allora? È una malattia della personalità, perché uno che dice una malattia della personalità, questa Parenzo, ho capito bene. E poi allora che è donna, mi sembra che qualche cosa non va. È come dire, io sono Giacomo Catania, arrivato a un certo punto mi ritrovo ad essere, per esempio, Napoleone Bonaparte. C'è qualche cosa che non va nel mio cervello. Lei è Giacomo Catania, no? Questo è diverso, Giacomo Catania. Tu sei Giacomo Catania, se ti senti Napoleone Bonaparte, ti prendono e ti portano via. No, voglio capire, lei è Giacomo Catania, giusto? Sì. Della mia identità ne sono certo. Ecco, io mi annoto il nome, che nel caso avessi bisogno di un medico, piuttosto mi faccio sparare un'endovena, guarda. Ma fai tu tutto quello che vuoi, a me non mi interessa a me niente, ognuno come vuole morire. No, scusa, ma è diverso se uno... Parenzo, diverso se uno sì, ho capito, Giacomo. È un pensiero relativo quello che sto parlando. Vabbè, Giacomo, ho capito, ti ringrazio, ciao. Rita da Roma. Buonasera, io volevo fare un intervento e in parte volevo dare ragione a Parenzo quando dice che l'altro è un valore e noi italiani stiamo perdendo questo punto di vista, stiamo diventando razzisti, stiamo prendendo una deriva pericolosa, non vediamo più l'altro come un valore, l'essere umano come un valore, come un nemico. Parlo ovviamente degli zingari e degli immigrati. Ma che roba è sto discorso alla Parenzo, di una banalità, l'altro, il diverso, no. Ora, due coglioni, dire, dai, sto finendo. sto finendo. In parte non abbiamo bisogno di lui, è vero che abbiamo paura. Io vivo a Roma e ho paura, io mi guardo intorno, scendo per strada e mi guardo intorno, se vedo uno zingaro tengo forte la borsa. E questo è, però è colpa dei politici che non ci assicurano la legalità. Quindi stiamo passando da un problema di legalità a un problema di razzismo, perché noi viviamo i problemi che poi questa mancanza di legalità a Roma e in tanti altri posti ci porta. Quindi spostare un po' dal problema del pubblico ragionante, bello, meno male. Bene. Ma che c'entra, scusa, non ho capito. No, dico come bene, perché sennò sembra che chiamino soltanto quei forsennati. Ma questa radisti. È l'idea tu che hai in testa. E invece vedi che c'è tutto un pubblico ragionante, bene. Ogni ascoltatore vale 100 ed è tutto uguale, non c'è una classifica, quelli ragionanti, quelli matti, quelli che sbraitano, quelli razzisti. Tutti valgono allo stesso modo, ti devi mettere in testa questa roba, c'è la democrazia, non c'è la democrazia del censo, capito? La democrazia della snobberia. Semplicemente che uno che è razzista va definito razzista. Massimiliano da Bergamo, fate la trasmissione con gli snob, vattene a radio non so dove. Non c'entra niente quello, c'entra il razzismo. Massimiliano da Bergamo, buonasera, volevo semplicemente dire che le scuole senza struttura, comunque con le classi in movimento, esistono anche in Italia, senza andare tanto lontano. Il metodo di educazione Waldorf è uno dei metodi più largo di tutto in Nord Europa. Adesso, appunto dico, cioè non è che c'è solo la Norvegia, come dice, no? No, non è che c'è solo la Norvegia. Scuole, la tecnologia viene portata più tardi. Nel mondo, una delle nazioni più informatizzate tende a spostare quella che era tecnologia nelle scuole più avanti nell'età. E nella Silicon Valley sembra che sono stati da confermare che i dipendenti della Apple mandino i figli a questa scuola proprio perché vogliono evitare che i figli entrino in contatto con la tecnologia prima dei 13-14 anni, perché prima non serve. Va bene, Massimiliano, grazie. Giuseppe da Cosenza, vai. Salve, buonasera a tutti. Volevo intervenire solo per dire di stare lontano dai calabresi. A proposito di corruzione, state lontano dai calabresi. In che senso? Qua c'è una piccola Cecenia qua sotto, quindi state lontano, state con gli occhi aperti. Una piccola Cecenia. Ma che vuol dire stare lontano dai calabresi, scusa Giuseppe? C'è un livello di corruzione che ha raggiunto livelli inimmaginabili. Non ci si può fidare di nessuno, ecco. Ma tu di che parli in concreto? Di qualcosa, dell'ultima indagine sui consiglieri regionali, su che cosa? No, quella è solamente la ciliegina. Io parlo, cioè, quella è solamente la punta dell'iceberg che è spuntata. Ma c'è una società malata qua sotto che non permette più di fare nulla di positivo e nulla di utile. Ma questo qua non è una cosa di oggi, questa cosa della Calabria, di come è ridotta la Calabria. No, non è di oggi, ma ringraziando Dio si sta peggiorando. Cioè, siamo arrivati sul fondo e lo stiamo raschiando per andare ancora più giù. Cioè, non ci stiamo fermando, stiamo cercando anche di peggiorare, quindi volevo avvisare, ci tenevo a dire questa cosa a tutti, fate attenzione tutte le volte che avete a che fare con uno anche come me, non vi fidate. Cioè, non bisogna fidarsi dei calabresi? No, cioè tu da calabrese dici non bisogna fidarsi, cioè tu stai perpetuando, stai affermando, stai concretizzando, stai manifestando tutti i luoghi comuni che ci sono sui calabresi. Ma non sono luoghi comuni, cioè tutto vero, nell'80% dei casi sono realtà, è qualche cretino che lo chiama luogo comune. Cioè la famosa Calabria Saudita esiste allora? No, la Calabria Saudita è sviluppata, c'è peggio della Calabria Saudita. La Calabria Saudita è quel po' di positivo. Addirittura l'Arabia Saudita è detta, lo si dice come no, che poi in realtà l'Arabia Saudita non è terzo mondo. Sì, ho risposto con una battuta per dire che è il peggio, è comunque ancora il meglio. Fermi tutti. Monellacci. La zanzara. Get your motor running. Looking for adventure in whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns and bombs and explode into space. Allora, andiamo a Pistoia, Andrea, vai. Sì, Cruciani, ascolta, lasciami solo 30 secondi. Allora, ti spiego come me l'hanno messo nel culo. Allora, ascolta bene, io, sì, classe 1952, il governo di Sicari, di Monti, praticamente con quella schifa della Fornero mi fa quello che ha fatto a centinaia di migliaia di persone prossime alla pensione. Cosa succede? Il governo Monti e il governo Letta, mi dici te quante decine di miliardi hanno prestato al governo greco? Beh, un po' di soldi, sì. Quanti? Un po' di soldi. Ti parla di 40 miliardi? Sì, all'incirca. Allora? Allora, si cerca di ricappare un po'. Ah, aspetta un po'. Classe 1952 l'avevano protetta, ma io sono un imprenditore e quindi come lavoratore autonomo non ho diritto alle protezioni perché pare che io stia navigando nel loro, perché gli imprenditori si sa in Italia oggi Non andiamo nel particolare. No, scusami, fammi contestualizzare. Bene, allora cosa succede? Questi gli danno 40 miliardi alla Grecia, una Grecia che lascia una situazione già all'epoca disperata, quindi è chiaro che quei 40 miliardi non torneranno più indietro. Ora mi dicono, cioè, guarda che per risistemare il discorso pensioni, perché l'hanno capito anche loro e la Fornero aveva fatto una merdata, dice no, però non ci sono soldi. Allora qual è la situazione? Che i soldi che a me spetterebbero per la mia pensione servono a finanziare un pensionato greco che le andava un pensionato a 35 anni che non fa un cazzo su un'isola, e io sono qui che mi fa un culo così da 40 anni e ancora mi tocca lavorare. Ma ti sembra normale? Non è del tutto sbagliato quello che dice l'ascoltatore. Ma come non è del tutto sbagliato? Lo assecondi pure. Non è del tutto sbagliato. Ma perché questo lui dice vabbè, ho capito ragazzi, tutto. Però la gente, bisogna pure stare dietro a quello che dice la gente, non è che dobbiamo per forza fare i discorsi da grande economia. Sta dicendo una cosa molto concreta: noi abbiamo dato un sacco di soldi alla Grecia mentre lui si trova con le pezze al culo. Va bene, ma questo non c'entra perché hai dato i soldi alla Grecia per i migranti, cioè queste sono tutte cose che vanno bene perché sono buttate lì, come quando tiri l'acqua, butti una roba, dice una carta per terra, la butto dentro tanto che quella va giù. Che c'entra? Perché con quei soldi lì si sarebbero salvate le pensioni degli italiani? No, perché la riforma delle pensioni andava fatta lo stesso. Perché che dici, Andrea, come rispondi a Parenzo? Parenzo, ma cosa dici? Parenzo, non capisci un cazzo, non mi pazienza. Non c'entra nulla, sono 40 miliardi che non sono nelle nostre casse e sono non neanche nelle casse della Grecia, perché l'hanno bruciati, ma capito? Allora qualcuno potrebbe dire che siccome ad esempio hanno salvato una banca come il Monte dei Paschi, ma non vogliamo entrare nel merito di questo, qualcuno i soldi a quella banca glieli ha dati, glieli ha prestati, glieli ha messi, visto che era sull'orlo del fallimento, no? Sì, e allora qualcuno potrebbe dire saranno dati tra banche, ma non sono venuto a pigliarla ai cittadini, che no, poi Monte dei Paschi gli 800 milioni banca alle in benedetti, no, ma vedi, se vedi che no, una Parenzo, ma che cazzo dici? Abbi no, scusami, se dai un po' di ossigeno al cervello, vedrai che ci arrivi anche no, tu. No, bello mio, sono le bombole, se le potrei dare anche a te. Te la faccio semplice, se fosse fallita una qualunque banca italiana. Aspetti, fermi tu, dovete stare fermi tutti, zitti che devo parlare con un signore, zitti un attimo. Pronto? Professor Biancarelli? Io non so. Pronto? Professor. Chi è? Lo so che lo è. Sono Cruciani, buonasera. Buonasera, non sono professore. Lo so, sto scherzando, come va? Ha sbagliato come va? Come numero. No, lei cercavo, anzi ti cercavo. Parliamo da Cruciani umbro a umbro. Chi? Cruciani della Zanzara, Radio 24. Parliamo da umbro a umbro, no? Che dici? Pronto? Pronto? Sì, da umbro. Eccoci. Da umbro a umbro. Allora, tu sai io sono di Orvieto, di origine. Non lo sai, te lo dico. Se non lo sai, te lo dico. Allora, ma hai scritto una cosa in cui dici: provo imbarazzo perché ho preso il primo stipendio. Ma voi altri giornalisti non ricominciate. Io quello che dovevo dire l'ho scritto. Punto. Beh, appunto, l'hai scritto, però spiegacelo. Spiego, è chiarissimo. Ma come non spieghi? Sono soldi nostri, non spieghi? No, lo spiego, è chiarissimo. Ce l'avete... Ma spiegamelo un attimo, siccome l'hai scritto. No. Ma come no? Hai detto, io provo imbarazzo perché non abbiamo fatto nulla e ho preso 5.398 euro. Non ho detto che non abbiamo fatto nulla. Beh, così, in questo periodo non abbiamo fatto nulla, questo hai scritto. Io non ho scritto questo, mi dispiace contraddire. E che hai scritto invece, scusa? Scusa, ce l'hai il testo? Non ce l'hai. testo. No, non ce l'ho il testo, ma scusami, abbi pazienza. Spieghiamo bene alle persone che No. Guarda, ma come? Ma sono soldi nostri, amico mio, sono soldi nostri. Va bene. Scusami, abbi pazienza. No, spiegami una cosa. Non è che senti, scusa, sta telefonata la vogliamo far proseguire o... Ma la stiamo proseguendo con tranquillità, calma, stiamo tutti calmi, con grande calma. Io sono calmissimo, ascolta, io non ho nulla da dire. Quello che volevo dire l'ho scritto. Da ieri il mio conto corrente è stato accreditato di questa somma per le competenze di consigliere regionale, dal 10-6 al 36, giusto? Facciamo le cose corrette. Provo un certo imbarazzo, considerato anche che in questo periodo non si è lavorato molto. A breve proporrò qualcosa di diverso a partire da me stesso e senza cercare di impoverire nessuno. Vabbè, non si è lavorato molto, effettivamente non hai detto. L'italiano è chiarissimo. Effettivamente non hai detto che no. Spiegazioni, perché dopo i giornalisti. Ma perché sei imbarazzato allora? Perché tu dici che si poteva evitare di darvi soldi, o no? Pronto? Sono imbarazzato perché sono una persona normalissima. E certo, ma io guarda che sono con te, sono con te io, non è che sono contro di te. 5.000 euro non è che li ricevo sempre, quindi... Sei stato eletto con SEL tu, no? Sei stato eletto con SEL, dunque sei... No, io sono stato eletto con Umbria più uguale, perché abbiamo rinunciato tutti ai nostri simboli, abbiamo formato un'unica lista che si chiama Umbria più uguale. E dalla in beneficenza. Siccome vi è... Dai quei soldi in beneficenza, allora. Ma io ho detto, a breve proporrò qualcosa a partire da me stesso. Cioè tu dici, è assurdo che uno per 20 giorni senza fare granché, diciamo, no? Diciamo la verità, facendo poco. Io quello che dovevo dire l'ho scritto. Vabbè, ma non è che siamo qui a... Mio programma elettorale io tutte le sere l'ho declinato a tutte le persone che mi sono venute tutte le sere. Ma il programma elettorale è un'altra cosa. La cosa fondamentale è questa. Non è un'altra cosa. È la stessa cosa. Ma c'è un po' da vergognarsi a prendere. Ho detto che rendiamo la politica credibile e diamo un segnale di abbassare le indennità. D'accordo. E dunque prendere i soldi per non fare nulla è una vergogna, diciamo la verità. Io non ho mai detto che non ho fatto nulla. Io questo non abbiamo lavorato molto. Io sono abituato alla campagna, al mese di giugno in campagna. Certo, se lavora. Dice. Non ho lavorato come in campagna. Come in campagna. Vabbè. Ecco. Ciao, non mi fate ciao, dire le cose che non voglio dire. Va bene, il fatto che l'hai scritto, siccome l'hai scritto, evidentemente provavi anche tu un moto di vergogna, un moto di scandalo. Scusa, 20 giorni, 5.300 euro senza fare una mazza, scusa, amico mio, te lo devo dire, Biancarelli. Ma giustamente l'hai scritto, giustamente incazzato per questa cosa qua. Quando uno non inizia a lavorare sul serio, al di là della proclamazione, l'inizio delle commissioni, eccetera, eccetera, non dovrebbe prendere un euro, giusto? Io intanto veramente pensavo che li avrei presi dalla data di insediamento del Consiglio, che è il 9 luglio. Poi invece mi hanno detto che dovevo portare l'IBAN, anzi ero l'ultimo. Lo so, è così. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo. La Zanzara. Guarda che c'è gente strana in giro. Eccoci. Carlo da Milano, dai, 800 24 00 24, continuiamo. Carlo, vai. Sì, pronto. Dunque, dimmi. Io volevo esprimermi molto brevemente nei confronti del presidente Obama, che ha recentemente... il governo statunitense ha dato l'ok per tutti gli stati aderenti agli Stati Uniti il matrimonio fra pederasti. Aspetta, matrimonio tra pederasti, in realtà non è il governo degli Stati Uniti, amico mio, è la Corte Suprema americana. Diciamo la Corte Suprema, che poi a un certo punto la Corte Suprema si è espressa dopo aver avuto un ok da parte delle sfere più alte. Ma chi te l'ha detto a te? Cioè, lo dici tu questo qua, cioè, è una cosa che dici tu, ma non è vera. Sì, non vabbè, allora... Ma non è così. Non sia vera, però è vera. Comunque io voglio solo dire questo, che questa iniziativa degli Stati Uniti d'America, che Dio li stramaledica, non è altro che un autentico atto di terrorismo, di terrorismo, ma il terrorismo con la T maiuscola, nei confronti della famiglia tradizionale, della famiglia sana, della famiglia che mette al mondo figli, come penso che ne abbia anche lei, figli che saranno poi... saranno le colonne portanti della futura società, che mi auguro sia migliore di quella di oggi. È un atto di terrorismo nei confronti della famiglia. Scusi, Obama o la Corte Suprema sono degli emeriti pronti. Ricorderanno in futuro che cosa succederà a questa povera umanità, questa società che è nel disastro più totale. E lei che è padre di famiglia, fate un esame di coscienza. E si chieda se è giusto che domani con la possibilità poi di poter adottare anche dei bambini. A me piace anche questa possibilità. Carlo, una infelicità totale della futura generazione. È uno scandalo, tanto più che l'80% dei pederasti sono personaggi che hanno voluto esserlo per provare qualcosa di diverso e per provare e per vizio. Ha capito? No, ma il restante 20% sono dei malati. Allora, aspetta, qui c'è una distinzione fondamentale che ha fatto. Perché li chiama pederasti? Ecco, appunto, questo è interessante. È la prima Carlo grande Damina... questione. Sì, perché la lui seconda, è l'emblema... Io li chiamo pederasti perché ho il dizionario della lingua italiana Zingarelli, ho il dizionario della lingua italiana di Vatte la Pesca, ultimissime edizioni, c'è l'enciclopedia Treccani e riporta pederasti. Pederasta, pedofilo, con la sua normale definizione e con la sua considerazione. Per cui, Carlo, secondo te i pederasti, cioè gli omosessuali e i pedofili sono uguali, la stessa cosa? Ma non ho detto che sono uguali, che sono la stessa cosa. Però, malati, tutti e due sono malati. Pensi che io avevo dei compagni di scuola, io ormai ho una certa età, che addirittura andavano con la capra. Andavano con la pecora o addirittura con una gallina, e se ne vantavano, però sono stati ricoverati per direttissima per malattie mentali. C'è qualche cosa? No, io sono assolutamente. Posso fare solo una piccola obiezione, professore? Aspetta. No, una piccolissima obiezione, professore, perché un po' mi sconvolge questo paragone che fa dei suoi compagni di scuola che andavano con le capre e sui. Sono questo legame che lei costruisce, francamente, mi ha detto con grandissimo rispetto, senza voler sembrare snob, glielo voglio dire, ma davvero col cuore, mi sembra una cagata pazzesca, ma davvero glielo dico non perché sono snob, con rispetto. No, ma anche a me sembra una cagata. Effettivamente è una cagata, come è una cagata quando una persona non ha ancora capito a cosa serve lo sfintere anale. Lo sfintere anale è una via d'uscita. I pederasti ne hanno fatto un'agenzia delle entrate, tutto lì, con le malattie, malattie infettive. Ma questo è numero uno. E allora cerchiamo di metterci un pochino con la testa. Ma che schifo. No, rimettiamo le cose. Ma è una persona schifosa, dai. Aspetta, rimettiamo le cose... No, ma a te ti fanno schifo i pederasti, i froci, quello che è. Rimettiamo le cose a posto, Carlo. Dimmi, Carlo. Mi perdoni, io non ho detto che mi fanno... I pederasti, il 20% dei pederasti, diciamo una percentuale... Anche le statistiche fanno... Sono malati, sono nati così, però sono coscienti. Non voglio che si dica... E si curano, fanno di tutto per curarsi spese. E una percentuale altissima riesce ad uscirne. E invece i rimanenti 80%, io li ho visti a Milano proprio ieri, a Roma, i rimanenti 80% sono tutti viziati, viziosi, soffrono di complessi di inferiorità nei confronti della donna, batte la spesca, che cosa sono? però l'hanno voluto loro. Questi l'hanno voluto loro. Carlo, ne vanno fieri anche di questa loro disgrazia. Questo allora, urta moltissimo, cioè, beh, sì. Le posso dire una cosa, diamoci del tu, che siamo fratelli ormai, Carlo. Ma che schifo. Diamoci del tu, ti posso dare del tu, Carlo? Ma può fare quello che vuole, tutto. Allora, a me mi piacciono i froci, che devo fare io? Mi piacciono i froci, mi piace pigliarlo in culo, che devo fare? Dammi tu una risposta. Se a me piace pigliarlo in culo, dammi tu una risposta. Dimmi. Lei si faccia ricoverare oppure si faccia dare un contributo statale per essere curato psichicamente. Vado da uno psicologo, si faccia curare il cervello, faccia quello che vuole. Comunque lei non è una persona normale. Ma la cosa più grave è che gli Stati Uniti d'America, questo paese ricco che crede di poter dettare legge nel mondo intero e che io gli auguro di fallire domani mattina, non la Grecia. La Grecia insegna agli Stati Uniti come si fa al mondo. Io mi auguro che falliscano gli Stati Uniti. Se vanno avanti perché creano che cosa? Una società malata. Il cancro della nostra società è anche questo. Ma scusa, ma tu lo sai che nel tuo palazzo, tu abiterai a Milano in un palazzo, no? Abiti sicuramente, dove abiti? In un palazzo. Sarà sicuramente pieno di froci. Cioè, accanto a te, nel tuo stesso palazzo, per una percentuale molto chiara, che è quella del 10% della popolazione, ci saranno sicuramente diversi omosessuali. Cioè, che incontri per strada. No, te lo dico. Ma secondo me tu stesso hai un po' di attrazione nei confronti del maschio, Carlo. Hai un'attrazione fortissima nei confronti del maschio. Sicuramente hai un'attrazione. Perché se pensi queste cose così malate, se pensi queste cose così assurde, hai un'attrazione fortissima nei confronti del maschio. Va a farti benedire, non ti dico. Ma sicuramente è così, cosa vuoi parlare? Che siccome non sai cosa dire, allora mi dici anche tu l'attrazione. Ma che attrazione ho? Ti piace l'organo sessuale maschile? Io ho l'attrazione verso i maschi, verso le femmine, cioè verso il mio prossimo, per aiutarlo, hai capito? Ma queste cazzate, queste cagate, queste stupidaggini che voi state... Facciamo un esempio, poi ti lascio. Se tu incontri due uomini che si danno una bella slinguata, che si amano, si abbracciano, si baciano, cosa fai? Davanti a te, cosa fai? Rimetto. Io penso che dovrei rimettere. Ma non è tanto quello lì, il fatto è che la società nostra è malata e tutti lo vediamo, lo sappiamo. Ma renditi conto che i figli che loro adotteranno, sono personaggi che si vergogneranno vita naturale durante. Guarda che non esistono più personaggi come te. Ma che cavolo di società stiamo creando? La scuola fa schifo. Tu vedi queste cose qui, quel presidente degli Stati Uniti, che è meglio che vada ancora in Africa e che si rimanga là a coltivare le patate, ma non si possono fare queste cose. Dove sta andando quel pazzo Red, malato? Aspetta che c'è la pubblicità, fermo, c'è Red Ronnie, poi lo porto un attimo 5 minuti qua a fare due chiacchiere, un attimo, pubblicità. Peppe, hai rotto il cazzo, Peppe, costi feroci. La Zanzara. E che cos'è? È che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Siamo al flop. Allora, la rubrica degli scontri televisivi si arricchisce questa volta, caro Parenzo, di uno scontro tra Salvini, come al solito, e un imprecisato signore arabo, Abu Abed. Sì, italiano anche, trattato a pesci Sì, trattato a pesci faccia, si sono massacrati nel tuo paese, un giovane ragazzo italiano, di fede musulmana. Sì, che diceva evidentemente delle cose che a Salvini non piacevano. Comunque, vabbè, se no andiamo. Aggredito televisivamente da Salvini. Questa è la presentazione, secondo me, corretta del fatto. Ma no, dai, su, ma chi ha aggredito? Io l'ho visto, l'ho visto. Dai. Parlo vai. Di cose che vedo, non che non vedo. Vai. Secondo lei è possibile dare dei bambini alle medie e alle elementari un libro così di Oriana Fallaci e a fomentare loro già un odio già in quell'età adolescente? Noi stiamo parlando di criminali. Ma guardi che l'odio lo esprime chi ammazza la gente in spiaggia. L'odio non lo esprime un libro. L'odio lo esprime chi taglia la gola al prossimo. Sono criminali, allora che cosa facciamo? Non vorrei averli sul pianerottolo di casa mia. E allora alle medie e alle elementari facciamo leggere il codice penale. Però scusa, mi pare una cosa un po' bizzarra, cioè Salvini diceva che il libro della Fallaci può essere pure una butade, una cosa così, va introdotto nelle scuole, quello dice no perché è un libro che ispira odio. Adesso francamente, cioè, su questa, proprio su questo punto qui mi sembra che abbia ragione Salvini, cioè non è che adesso arriva un tizio che si chiama Bu Abed e dice il libro della Fallaci esprime odio, dai, comunque andiamo avanti. Lei soffre di manie di protagonismo, lei pensa che tutti quanti i terroristi vogliono venire in Italia. Ma lei è un cretino. Criminali che abbiamo qua. Ma cosa? Cosa? Cosa sta dicendo? Scusi? Lei ha dei problemi. Lei vuole che aspettiamo un attentato in Italia per preoccuparci. I problemi ce li ha lei. Lei vuole aspettare che arrivino a Milano, a Roma per preoccuparci. I problemi ce li ha lei, che vive di protagonismo, vive di fomentare paura nella gente. Lei mi spaventa, lei mi preoccupa, lei pianga i morti innocenti di oggi, lei pianga i morti innocenti di oggi e si vergogna. Io non voglio che l'Italia diventi una macelleria, e la colpa è di Salvini, lei spaventa la maggioranza degli italiani. Il signore che è in collegamento con la barba non lo vorrei come vicino di casa neanche gratis, perché ma è pericoloso. Ma se per quello neanche io, Salvini, mentre invece tengo lei come vicino di casa. La signora, anzi, gente come lei, non dovrebbe vivere in uno stato democratico. Lei è ospite a casa altrui, porti rispetto, ospite, e se non è in grado di portare rispetto faccia silenzio e torni da dove è arrivato. Ma ospite la signora, ma questo ha perfettamente è ragione lei, Salvini. Mamma mia, no, il traffico, no, vi prego, il traffico. La Zanzara. Vuoi ridere un po', Davide? Allora, il 16 agosto, scrive il nostro amico Enrico Rizzi, capo del partito, sedicente partito degli animalisti europei, che è un partito che non esiste in realtà, no? Un partito formato da quattro gatti che dicono quattro minchiate sul web. Signor Enrico Rizzi, il 16 agosto vuole andare a Siena, Il 16 agosto tutti a Siena, penso per il palio, a parte che non si è accorto che c'è un palio pure adesso, forse non fa in tempo a organizzare il suo circo. Il 16 agosto tutti a Siena, invaderemo la città da ogni parte d'Italia. Partito animalista europeo e fronte animalista promotore. Beh, quelli lo menano, Fermiamo il palio. Voglio vedere Enrico Rizzi entrare a Siena cercando di fermare il palio. Ti fanno un culo così, Ti fanno un culo così, caro Rizzi. E fanno anche bene, secondo me. Io voglio vedere il padiglione del Brasile distrutto. Prima che vado via da qua, voglio vedere il padiglione del Brasile distrutto. Bisognerebbe, dopo il matrimonio di Battisti, chiudiamo il padiglione del Brasile all'Expo. Cioè, chiudiamolo come ritorsione, chiudiamolo. Ma perché non siamo in grado, se abbiamo le palle, dobbiamo fare una ritorsione nei confronti del Brasile. Chiudiamo il padiglione del Brasile all'Expo, stupendo. Ma è bellissimo, un paese con le palle fa queste robe qui. Ma nemmeno lo fai, ma nemmeno lo costruisce il padiglione del Brasile del cazzo qua. Dai, su, Giovanni da Milano, vai. Giovanni da Milano, 800-24-00-24. Giovanni, vai. Sì, ciao a tutti. No, io volevo ripetere, cioè volevo il discorso delle unioni fra gay, no? Allora, io condivido... Che t'hanno fatto di male? Sì. No, vabbè, allora io condivido il fatto che comunque ci si sta assieme, eccetera, ma non sposarci, perché si va contro natura, cazzo. Cioè, il numero 3 è il numero magico, è un numero perfetto, uomo, che donna, bambino. Cazzo, non si può concepire due uomini, non possono, come dire... Se la metti sui numeri, sempre tre sono: due uomini e un bambino, due donne e un bambino, sempre tre, non è che cambia. Capito, ma la concessione sta nel fatto che comunque uomo, donna e bambino, il numero 3, perfetto e magico. Poi se vuole metterla sui numeri ci sto solo anche c'entra, da... Che c'entra il numero perfetto? Ma che cazzo stai dicendo? Stai dicendo delle cose assurde, cioè, comunque tu sei contro il matrimonio gay, per carità, è anche legittimo, io sono contro quelli che criminalizzano. È contro natura, per me è contro. Vabbè, è contro natura, adesso è una parola grossa, contro, che vuol dire la natura, contro natura? Perché? Chi te l'ha detto che è contro natura? Ah, ho capito. Perché è contro natura? Spiegami, due che si inchiappettano sono contro natura, secondo te? Sì, ho capito, è che fanno un figlio dove cazzo lo mettono? Qual è l'ucero? Ma no, il figlio non lo possono fare, al massimo lo possono adottare. Scusami, è contro natura questo. Scusa, ma non, si io sono... dove cazzo lo buttano fuori il figlio dal buco del culo? Non lo so, io scusami. No, dai. Per questo adesso non andiamo in questi dettagli. Però sto dicendo semplicemente che non lo possono fare, lo possono adottare. In alcuni paesi ci sono delle famiglie, dei figli che crescono in maniera tranquilla, normale, senza particolari traumi, senza le stronzate che si sentono dire da quelli del Family Day sui traumi dei bambini. Crescono normalmente anche in una famiglia omosessuale. Bisogna aprirsi da questo punto di vista. Non è che si può restare fermi a uomo, donna, bambino o bambini. Ci sono anche uomo, uomo, bambino, donna, donna, bambino, arrendetevi, ormai il mondo avanza, così, no, avanza. Ma è contro, per me è contro natura. Poi possiamo fare un dibattito da qui a domani. Ma scusa ragazzi, ma tu l'avresti mai immaginato, ma scusa, che il Papa... l'utero è stato concepito dall'uomo o dalla donna? Ma adesso, ma che c'entra, dai, tu avresti mai pensato che il Papa va in Bolivia e dice che vuole masticare le foglie di coca? Cioè, tu potevi mai pensare a una cosa di questo tipo? Cioè, non è impensabile, no? Il Papa oggi ha detto, anzi non è che ha detto, il presidente della Bolivia, il ministro, non so chi, hanno detto, ci ha fatto sapere il Papa che vuole masticare le foglie di coca. Beh, tu ti rendi conto o no? Un Papa che mastica le foglie di cocaina. È una roba pazzesca. È vero che le foglie di cocaina, la masticazione delle foglie di cocaina hanno in Bolivia un valore particolare, però insomma era impensabile fino a poco tempo fa che due uomini potessero adottare un bambino o che due donne potessero adottare un bambino. Adesso piano piano ci si arriverà, però detto questo, se tu sei contrario, io non sono lì per criminalizzarti e dire che sei uno no, che sei un retrogrado, che sei qualcuno medievale. È giusto anche essere contrari, però vinceremo noi. Allora, il discorso che convivo, però vinceremo noi, vinceremo noi, è chiaro, no, non è possibile, ma vinceremo noi. Non è possibile, no, averlo no, adottarlo sì. Marco da Padova, dai Marco, poi sono i casi, saranno molto pochi, perché alla fine poi, ma chi se vuole sposa più? Ma che siete matti a sposarvi? Sposarsi è una follia, un contratto, una prigione. Ci saranno pochissimi froci che si sposano, te lo dico io, pochissimi. Marco, Padova. Ciao Cruciani, ciao Davide, un saluto da Padova. Vai, dimmi. Ciao. So che non sarete d'accordo totalmente con me, però fatti salvi, diciamo, i sentimenti che ci possono essere fra uomo, uomo, donna, donna, parliamo di amore, ok? Una riflessione, io adesso stavo paragonando, magari ingiustamente, i transgender, cioè sappiamo di cosa stiamo parlando, no? Di quelli che vogliono trasformare il loro fisico per cambiare sesso, giusto? Sì, sì. Giusto? Che male ti hanno fatto, si transgender, che male ti hanno fatto. C'è gente che nasce, nasce con un corpo da uomo e si sente invece femmina. Ma che devono fare questi qua? Perfetto, che li vuoi ammazzare? Che vuoi fare? No, voglio dirti una cosa. Io li adoro, i trans, sono fratelli, Posso parlare? È uno show dei record, ho visto due persone, uno che si sentiva un gatto sì. E si è fatto trasformare il viso, si è fatto un sacco di operazioni per assomigliare il più possibile a un gatto, un altro si sentiva serpente e si è fatto tagliare la lingua come un serpente, si è fatto modificare le mascelle, si è fatto modificare il cranio. Cioè, allora uno si sente femmina e si taglia le palle, si rifà il seno, tutto concesso, no? Io mi sento un animale, non è così. Non è così come dici tu. Non è che è tutto concesso. Se oggi tu ti vuoi trasformare in gatto, non è possibile farlo. Se ti vuoi trasformare da maschio, se ti vuoi trasformare in femmina, lo puoi fare, perché ci sono delle operazioni che te lo consentono. Non è che se passa questa cosa qui, come è già passata peraltro, perché è pagata pure dallo Stato, se vuoi cambiare sesso, passa anche il fatto che ti puoi trasformare in un gatto o un animale, perché non può avvenire questo. Non può avvenire. È chiaro o no? Sì, è chiaro per voi, per me no. Ma come per te no? Dai, su! Vabbè, posso paragonarmi che più o meno è la stessa cosa. Però sarà tra folle quello che dico. Però scusate, se uno modifica il proprio corpo, si fa delle operazioni per modificare un qualcosa che è, che non si sente, e si sente qualcos'altro, giustifichiamo che quelli che sono andati verso i record a trasformarsi in animali. A questo punto Se tutto è una cazzata, stai dicendo una grossa cazzata. Ciao. Davide, che ho scoperto la vera identità del nostro ascoltatore numero uno assoluto, Donato da Varese. No, Donato, cioè, che vuol dire? Non la voglio svelare. Come vuol dire la vera identità? Cioè, non si chiama Donato? Sì, assolutamente. È scappato da un manicomio criminale? No, aspetta, però c'è un tizio che vuole intervenire, che... sulla storia del Brasile. Però aspetta, hanno scoperto dei nostri amici la vera identità dell'ascoltatore Donato da Varese, il quale canta, fa quelle uscite incredibili da noi, anche terribili per certi aspetti, no? A te non piaccio, combatti sempre con Donato da Varese, te lo ricordi? Sì. Però compone delle canzoni melodiche. Sentiamo. Dentro un pensiero in un angolo, t'ho incontrato in un giorno normale di abitudini, dietro di me resta una vita che non torna, accanto a me luce. Donato Varese, dai. Pronto, salve. Sì. Volevo parlare un attimo con Renzi, un mio parentola, come cazzo si chiama. Sì, scusami Donato, dimmi, con chi vuoi parlare? Con Parenzo, voglio parlare con Parenzo. Sì, è qui. Voglio sapere... sono qua, tesoro. Io vorrei fare un discorso che purtroppo piace a pochi, specialmente quelli che lavorano nel mediatico. Dai, Donato. L'Italia sta per essere islamizzata. Io ve lo dico, vi porto le prove, l'Italia sta bene, cioè, quella troia lì, come si chiama? Rosaria Crocetta. Cioè, ma c'è stato un giornale marocchino che ha detto, allora questi omosessuali li ammazziamo, non li bruciamo vivo, non li bruciamo vivo. Beh. E Crocetta ha detto, mi bruciano vivo pure a me. Come cazzo devo dirvi che noi ci stanno islamizzando? Sì. Noi sì. Non possiamo fare. Anche a questa testa di cazzo che hai a fianco, perché attacca la Lega? Digli a questo testa di cazzo che ha a fianco. Bene. Coloro che potranno difenderlo un giorno dalle efferate violenze dell'Islam, sì, sarà probabilmente la Lega. Ma e non sarà l'Islam stesso che lui difende. Lei non si preoccupi, perché tanto non avrà davanti a sé lunga vita. Allora, tu ti vuoi mettere in testa che noi ci stanno islamizzando? Sì, certo. Tu sai che l'Africa è piena di porchi, di animali che chiamano, stuporano, ammazzano, uccidono. Ha telefonato ieri una grandissima testa di cazzo. Ma chi è? Chi ha chiamato? Una chi? Grandissima testa di cazzo. Ma chi? Stai calmo. Chi? Ma non un napoletano, sono un napoletano, vergogna. Non fosse un napoletano, sono un... Ma è il caldo che fa venire fuori gli spostati. Il caldo. Ha detto che la moglie c'è multiculturalismo. Sì, che ha sposato. Non fa altro che arricchirci. Ma arricchirci in che cazzo, che l'Italia non è seconda a nessuno? Calma, nell'arte, in tutto, nel cinema, perché sono i comunisti, in tutto. Dico soltanto che gli omosessuali sono purtroppo dei malati, gente malata. Vabbè. Sessualmente sono malati, perché io sono convinto che il sedere non deve servire certamente per essere agguato. Non è una cosa contro loro, no, contro la natura, non esiste. A che deve servire il sedere? Non ho capito. Non penso che il deretano sia stato deputato per essere in qua. Sì. Non, è una cosa che non riesco a capire. Il deretano è nato per defecare, per scaturire deiezioni, non c'entra un cazzo. Vi voglio avvisare che la voce che sentite qui con questa canzone è la stessa del signore che prima sparava a zero contro Parenzo, contro gli omosessuali, eccetera. Ma io non vi rivelerò mai chi è questo signore, Donato da Varese. C'è l'invasione dei froci. State ascoltando un programma offerto da Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. La Zanzara. Senti, ti voglio dire una cosa, Giuseppe. Sai perché mi piaci? Perché sei pazzo. Mi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così. Un mondo così fa cagare. Allora, Parenzo, qualche volta io trovo dei punti in comune tra l'Islam e il cattolicesimo, cioè la Chiesa, il Vaticano, diciamo, adesso sto banalizzando, no? Però, per esempio, c'è questo prete in provincia di Lecce, no? Che vuole negare il titolo di padrino o padrina a chi ha messo, ha colorato la sua foto su Facebook della bandiera, dei colori dell'arcobaleno, no? Cioè chi è favorevole al matrimonio gay, secondo lui, non può fare il padrino o la padrina durante i battesimi, le comunioni, eccetera, eccetera. Questo tizio, vabbè. Nello stesso tempo c'è un imam italiano, che è il capo dell'Unione delle Comunità Islamiche Italiane, che dice basta vallette nude, è più rispettoso il velo per la donna rispetto alle donne che si spogliano in televisione. Mentre vabbè, la donna questo no, lo potrebbe dire anche un cattolico fervente, lo appunto potrebbe dico, vedi che alla fine l'oltranzismo, certo, crede questo, l'estremismo, sì. L'estremismo, eccetera, la religione, che sia bianco-gialla come quella del Vaticano, che sia nera come quella dell'ISIS, eccetera, eccetera, eccetera, per non aprire qui un discorso su tutto, genera questi mostri orrendi, persone che dicono che il nudo in televisione non è rispettoso delle donne, ma il nudo in televisione è la massima espressione di libertà, cioè dove c'è il nudo in televisione, dove c'è la donna che si spoglia in televisione, lì c'è la democrazia, c'è la libertà, non è una versione negativa della donna, è esattamente il contrario. Vabbè, io direi di andare a Milano da Michele, sempre 800240024. Michele, vai. Cruciani, mi vuoi tirare giù il padiglione del Brasile? Ma com'è questa storia, scusa? Per un proletario armato, comunista, condannato in contumacia, che se ne va in giro per il mondo a evitare esatto, la condanna, e tu mi vuoi tirare giù il padiglione del Brasile, 15.000 persone che si divertono tutti i giorni. Anche aspetta, perché se tu dici sta cosa, scusa Cruciani, ma se tu dici sta cosa, vuol dire che te ne mancano due. La prima è che comunque fra 4 mesi, secondo quelle che sono le linee guida dell'Expo, dovrebbe venire giù. E la seconda che non sai, e mi dispiace, però colpa nostra evidentemente, è che noi stiamo facendo il diavolo a 4 per evitare che vada giù e per ricostruirlo a Milano. E tu me la vuoi tirare giù per chi? Per Battisti? Ma dai, ma non è che possiamo giocare queste battaglie politiche perché c'è qualcuno che sta ospitando Battisti in Brasile e allora tiriamo giù il paio del Brasile. Dai, devi stare molto molto calmo. No, io calmo molto, non sto molto mai, Cruciani. Allora Michele, la situazione è molto semplice. È molto chiaro, io non è che ho detto che bisogna tirare giù, distruggere, perché si distrugge da solo tra qualche mese. Sì, era una provocazione, un'estremizzazione di una cosa, di un pensiero, allora che avevo detto, rispondo alla provocazione, avevo espresso qualche se fossi io, come dire, secondo me se l'Italia avesse le palle non avrebbe per ritorsione di una vicenda dimenticata, ma che ogni tanto torna a galla come quella di Battisti, ma allora un criminale, anche quello indiano coi Marò, scusa. Ma no, ma quello è un altro discorso, una cosa più complessa. Ma no, ma se uno dovesse seguire la follia del tuo ragionamento, dovrebbe chiudere quello indiano. Vai quello a dire alle famiglie, vai a dire alle famiglie delle persone, delle quattro persone uccise da Battisti. Allora ma non rompere i coglioni. Ma qui si sta la cosa è molto di nutrire il pianeta. Ma che ma c'entra? Lascia perdere, non gliene ha fatto un cazzo a nessuno di ma questa roba qua. Ma tutti invece. Ma la che cosa c'entra? Fondamentale ma è un'altra. Io ho detto una cosa e rispondo all'ascoltatore Michele. Io ho ma detto, allora dovessi chiudere anche quello dell'India. Se avessimo, furbo, non c'entra niente, sono due ma cose diverse. Certo, perché il tuo ragionamento se fossimo, è stupido, ma scusa, se fossimo ma che vuol un dire? Paese con le palle non avremmo nemmeno fatto costruire e allora un paese. Anche l'India è uguale. Oddio, Michele, glielo dici tu la differenza che c'è? Non c'è nessuna differenza, è uguale. Michele, gliela spieghi tu per favore. Provocazione per provocazione è uguale, una stupidaggine uguale. È la stessa cosa. Ascoltami un attimo. Intanto il padrone dell'India non c'è, prima cosa. Quindi già è difficile, voglio dire, metterla in questi termini. E poi voglio dire, il valore che ha una vicenda che giustamente Cruciani dice dimenticata. Sì, una vicenda dimenticata. Però una vicenda che alla fine, a oggi, non è che ha tutta sta, no, importanza, sta valenza. Dobbiamo attaccarci. Ma infatti non sto dicendo, no, che ha tutta questa importanza. Io ho detto semplicemente che secondo me, se un paese avesse le palle, non avrebbe manco fatto costruire lo stand del Brasile là, il padiglione del Brasile qui all'Ex. Ma no, finché non ci ridate Battisti non fate il padiglione del Brasile. Ma una cosa, una piccola cosa così, che faceva casino, almeno facevi vedere che avevi un po' di palle. Siccome non gliene frega niente a nessuno di queste quattro famiglie che hanno avuto parenti ammazzati da questo signore che sta in Brasile e si sposa liberamente e non le strade in Italia, io avrei dato un segnale, punto e basta. Poi io, chi se ne frega, cioè, se non lo vogliono fare non lo fanno. Ciao Michele. Cristina, Parma, vai. Ragazzi, vai, dimmi. Allora, io volevo intervenire, intanto vi ringrazio perché ci date la possibilità di parlare, e ormai è molto difficile riuscire a parlare liberamente, anche se in teoria siamo in democrazia, quindi per questo vi ringrazio. Si può parlare liberamente ovunque, poi qui più liberamente che da altre parti, comunque. Infatti, allora io volevo parlare a proposito, esprimere una mia opinione a proposito degli omosessuali. Io non sono assolutamente d'accordo con chi dice che sono malati, con chi dice che hanno delle modificazioni del DNA e con chi dice che ci siano problemi psicologici, tanto che abbiamo bisogno di un ricovero. Vabbè, io allora la penso un po' diversamente. Secondo me è una questione di possessione, ovvero se tu vai a guardare alcuni testi della Chiesa, di alcuni esponenti illustri della Chiesa, vedi come ci siano, si dipinga la possibilità che queste persone possano essere disturbate da spiriti maligni, da veri e propri demoni che ingenerano. Ma tu sei malata in testa, ma di che stiamo parlando? Ma dove hai letto queste cose? Ma cosa hai letto? Ma di che parli? Spiriti maligni negli omosessuali? Ma leggi, ma con chi hai parlato? Con padre Amort? Con chi hai parlato? Amica mia, sono parecchi esorcisti. Con qualche esorcista. Ma parecchi esorcisti, ma gli esorcisti per me non esistono, non esiste il diavolo. Con un medico bravo. Lei dovrebbe parlare con un medico bravo, non l'esorcista. Ma io non ho bisogno, io posso insegnare psicologia, posso insegnare 8 materie, ragazzi, quindi non ho bisogno di parlare con un medico. Tu puoi insegnare quello che vuoi, ma se pensi che gli esorcisti, a parte che non so quale esorcista ti abbia detto una cosa del genere, che i gay sono... Don Pasqualino Fusco, uno dei più illustri esorcisti italiani. Allora, qui me lo segno, Don Pasqualino Fusco. Cosa dice Don Pasqualino Fusco? Don Pasqualino Fusco cita alcune fonti di disturbo, nomi, e dice che ci sono... C'è proprio uno spirito maligno, più di uno, che induce omosessualità. Spirito maligno che induce omosessualità, capito Parenzo? Omosessualità. No, cioè, io penso che questa persona qui ha bisogno di un medico bravo subito, che possiamo anche passarglielo noi perché abbiamo la convenzione col ministro Lorenzin e col ministero della salute. Quindi possiamo passargli immediatamente il nome di un buon medico, buono, sul territorio proprio. Cristina da Parma oppure il Don Pasqualino Fusco? Non ho capito. Io lo metterei per entrambi. Cioè, è più grave Don Pasqualino Fusco, questo esorcista? No, sai, Don Pasqualino fa Don Pasqualino, non è che puoi chiedere a Don Pasqualino, potresti chiedergli. Però Don Pasqualino, sai, non è che mi stupisce. E Don Pasqualino dice, fa Don Pasqualino. Quest'altra persona è quelli qui che invece... credono, è quelli che credono a Don Pasqualino il problema. Il problema è quello. A Don Pasqualino puoi chiedere. Allora, Cristina, dove si trova questo Don Pasqualino Fusco? Cerchiamo di localizzare un po' la vicenda. Dove si trova questo Don Pasqualino? Non lo so, io ho comprato il libro, quindi. Il problema non è quello. Il problema è che se loro veramente fossero contenti, soddisfatti della loro condizione, non avrebbero bisogno di un riconoscimento, di un esimente sociale, di una legittimazione. Evidentemente sono disturbati. Chi li disturba? Sono disturbati da spiriti maligni che inducono in loro un modello di comportamento e di vita sbagliato rispetto a quelli che sono i parametri e le consuetudini della società. Cioè, se loro fossero, si collocassero all'interno dei binari normali della società... Come fai a credere a queste puttanate? Don Pasqualino Fusco, ma di che parliamo? Ma che libri ha fatto? Io adesso lo voglio consultare. Vado subito su Google, Don Pasqualino Fusco. Parenzo, fallo anche tu, sei davanti qualcosa. Don Pasqualino Fusco. Eccolo qua. Ma ti pare possibile che uno deve ragionare oggi su Don Pasqualino Fusco? Eccolo qua, mazza. Sembra veramente... Sì, effettivamente è un seguace di padre Amort. Preghiere di liberazione dal marito. Questo bisogna pizzicarlo assolutamente. Ciao. sono molto curioso di capire proprio in chiusura di questa trasmissione cosa ne pensa della Grecia un nostro caro amico che torna qui, non so con quale spirito, se spirito da battaglia o spirito insomma un po' più rilassato, non so che fine abbia fatto, il mitologico Paolo Barnard. Buonasera, come andiamo? Ciao, no, ma andiamo malissimo. Questa è la cosa tragica, è che l'ultima volta speravo che voi due vi suicidaste, sono finito per morire io. Questo veramente fa ridere. Ma perché sei morto? Non ho capito, non mi pare morto. Sono finito, sono morto, mi ha cacciato fuori da tutto, la gabbia è la terza volta che vi caccia fuori, la RAI non mi vuole più vedere, l'economista americano per cui ho lavorato 2 anni e mezzo, 4 anni, mi ha coltellato la schiena, è andato con degli stronzi. Cioè, peggio di così. Ma come cambia allora? Sono l'unico giornalista ebola d'Italia, non mi vuol toccare neanche il giornalino di Alba Adriatica, dimmi te come sono finito. Ma come campi, scusa, come campi, scusa, che c'è, le pezze al culo, come campi, sei un morto di fame, che fai? Ma che cazzo te ne frega, fammi le domande. Ma come campi, spiegami, sei tu che no, hai detto che sei stato cacciato. No, come campo io, dai, fammi le domande. Ma non me ne frega invece, come campi? Perché non ti sei che ammazzato, fai? Microcefalo, dai, fammi le domande, siamo in chiusura. Ma che fai? Cosa? Che domande vuoi fare? No, ma che fai? Io chiedo, Paolo, spiegami un attimo. Ma che fai, il gigolò? Di cosa vivi? Di stenti? No, vivo di stenti sì, vivo con la pensione di mia madre, lo sa tutta Italia, leggete il mio blog, dai. Cioè, praticamente sei in default come la Grecia. Sei in default come la Grecia ormai. Sì, dai, buffone, ascoltami, fate le domande o cosa? Beh, questo è il punto dal quale partire. La pensione di tua madre, ma non ti vergogni a vivere con la pensione di tua madre? Che sei matto, Paolo? Ma non devo fare, ma non mi dà lavorare nessuno, sono mica un leccacazzi come te io, scusami, Ma io adesso esagero. Beh, dai, a caso mio, allora, se io lecco i sederini di Squint e compagnia, sono anch'io lì da voi a fare una trasmissione. Dai, tira avanti con le domande. Scusami, Varoufakis, beno altri, scusami. No, lui non sopporta Varoufakis, per andare avanti. Sì, allora, spiegami che sta succedendo in Grecia. Ma lui è peggio dei greci, perché i greci... No, aspetta. Ma non è neanche la pensione della mamma, capito? Invece lui campa con la pensione della mamma. Ma chiudiamo questa parentesi. Voglio chiedere a Barda in 30 secondi di spiegarci la situazione della Grecia. Oh, in 30 secondi, capito? Che bella telefonata. Vabbè, un minuto. Vabbè, dai, Grecia niente, la Grecia non conta, morta, finita, non frega un cazzo a nessuno. Il problema, come ho scritto, è la guerra dei tassi di cambio fra Stati Uniti e Stati Uniti, Draghi e Banca Centrale Europea da una parte, Bundesbank e la Merkel dall'altra. Stati Uniti, Draghi la Banca Centrale Europea vogliono tassi di interesse, cioè i tassi di cambio dell'euro bassissimi, perché sono ossessionati con questa storia dell'export. La Germania vuole l'euro forte, quindi la guerra interna è fra Bundesbank e Banca Centrale Europea da una parte, Goldman Sachs Stati Uniti dall'altra. La Grecia è un morto, un cadavere che viene usato, un cadavere, ma è una tragedia, perché sono persone vive, sono persone vere che soffrono, è un cadavere morto, stramorto, venduto, stravenduto da quel figlio di puttana di Varoufakis che fa finta di essere il bad cop, mentre quell'altro Tsipras fa finta di essere il good cop, capito? È un cadavere usato per semplicemente questa guerra di cambi, tutto lì. La storia della Grecia è questa. Tu la capisci perché vive lì con i soldi della mamma? Sepolta. Lo volete capire? Il referendum del cazzo, nel referendum non c'è neanche la domanda su uscire dall'euro. Questo il referendum non esiste perché il referendum non esiste perché la questione fondamentale, l'offerta dell'Unione Europea non esiste più sul tavolo. È come andare a votare per l'abolizione di una legge italiana che non c'è più. È una buffonata. Tsipras e Varoufakis sono due criminali, hanno venduto la Grecia un anno fa. Aspetta, lo volete capire? Parenzo, commento finale di Parenzo. Al di là di tutto, tu poi ti chiedi perché vive con la pensione della mamma anziana. Ma non è vero, ma guarda che invece ha una sua. Non ma guardate i risultati deficienti. Sì, lui è molto ascoltato negli ospedali dove si curano le malattie mentali. È salita. Ma guardate i risultati. Ma è ascoltatissimo. Ma dai, su. È ascoltatissimo nei reparti dove si curano le malattie mentali. Sì, te non sei altro che dire questa roba qui, Parenzo. Dai, lì vabbè. Sei molto ascoltato. Va bene, Paolo, però. Che fa questa battuta del cazzo, ma perché ha ragione Parenzo? Non ho capito. Ha ragione. Allora, però io voglio fare un piccolo editoriale ogni giorno fino a quando mi andrà, se vuole anche lui, con Paolo Barnard. Il prossimo sarà sull'Islam, perché sull'Islam veramente ne può dire di cotto e di crude. Se te va, Paolo, se non te va, vattene a fanculo pure te. Ci sentiamo domani alle 18:30, ciao. Tu chiami, però, ragazzi, con Parenzo mandatelo in vacanza, cioè non è che può fare due battute, capito? Che lo so, hai ragione, fa sempre le stesse battute, bisogna che ti rinnovi pure te, Parenzo. A domani, 18:30, ciao.